Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera andiamo a Rovigo, dove ormai è a buon punto un progetto che è stato inserito tra l'altro da Legambiente tra le buone pratiche che le amministrazioni pubbliche possono adottare per fare efficienza e anche per migliorare l'ambiente cittadino dal punto di vista, per esempio, della qualità dell'aria. Parliamo di un progetto che si chiama Biodiesel dal tuo olio da cucina. È stato messo in piedi dalla SM di Rovigo, che è l'azienda di servizi municipale, e qui in linea con noi a spiegarci di cosa si tratta c'è Giuseppe Romanello, che è direttore della divisione ambientale di ASM. Buonasera Romanello. Buonasera Melis. Allora, dunque Romanello, biodiesel dal tuo olio da cucina. Parliamo soprattutto degli scarti delle fritture, no? E tutto inizia con la raccolta differenziata. Certo, e il nostro mestiere è proprio quello di fare raccolta differenziata, e quindi ci siamo posti il problema che i rifiuti non sono solo quelli solidi che si producono nella pattumiera, ma ci sono tutta una serie di rifiuti che possono essere raccolti opportunamente, tra cui l'olio alimentare esausto, che è soprattutto l'olio da frittura. Questo quindi può essere raccolto invece di buttarlo, assolutamente non nell'ambiente, quindi sul terreno, sulle acque superficiali, ma non si deve buttare sicuramente neanche nelle fognature, proprio perché questo poi aggrava i problemi di depurazione delle acque e quindi andiamo a creare dei problemi a chi deve trattare le acque per riportarle a condizioni ottimali. Allora, inizia tutto con una raccolta che parte intorno al 2005, se ricordo bene, poi a un certo punto vi viene un'idea su come utilizzare in modo innovativo questo olio. Sì, siccome l'olio alimentare veniva raccolto e poi andava a finire da qualche parte dove lo trasformavano tra le varie alternative in biodiesel, abbiamo deciso che potesse essere interessante seguire meglio la filiera, controllarla e soprattutto rendicontare ai cittadini che cosa succedeva dell'olio che ci dava. Quindi abbiamo deciso di riutilizzare il biodiesel che veniva prodotto con l'olio alimentare raccolto a Rovigo sui mezzi della raccolta rifiuti della città. E così facendo è nato un progetto che aveva lo scopo dimostrativo e anche di motivazionale per i cittadini, che così sapevano che l'olio che ci davano serviva esattamente a qualcosa di preciso e serviva a migliorare non solo la raccolta differenziata, ma anche la qualità dell'aria, perché come sappiamo il biodiesel è un carburante alternativo che ha minore impatto ambientale rispetto al gasolio tradizionale, diciamo che minerale. Produce un po' meno di quel famigerato, direi, PM10, che tra l'altro lì da voi a Rovigo è un bel problema perché siete una delle città con il più elevato numero di sforamenti del PM10 durante l'anno, vero? Sì, Rovigo ha un problema, non è che produca chissà quale inquinamento, ma lo riceve perché è collocato nella bassa pianura padana e quindi vive dell'aria che c'è di tutta la pianura padana. E quindi il biodiesel inquina meno al tubo di scappamento, anche se poi il vantaggio grosso che ha è che dà un contributo a livello di emissioni di CO2 equivalente, quindi diciamo a livello planetario dà un altro contributo contro il surriscaldamento planetario. Come funziona la raccolta? Allora, la raccolta molto semplicemente avviene per autoconferimento da parte dei cittadini. Inizialmente avevamo cominciato a mettere un punto di raccolta presso la piazzola comunale, ecocentro che dir si voglia, e poi visto che c'era diciamo una buona risposta da parte dei cittadini abbiamo creato dei punti olio, delle piazzole, delle stazioni collocate presso tutti i principali supermercati della città, proprio perché così i cittadini abbiano la massima comodità per conferirci l'olio prodotto. A ognuno viene data in dotazione una piccola tanichetta verde in cui raccoglie l'olio, vero? E lo porta quando l'ha riempita, in pratica. Certamente, noi abbiamo distribuito il kit domestico da tenere nel sottolavello, poi quando è pieno vengono e lo conferiscono in questi contenitori. Periodicamente noi invece passiamo a votarli e li avviamo al trattamento successivo, che trasforma l'olio alimentare esausto in biodiesel prima che poi ritorni sempre a noi per essere utilizzato come carburante. E tra l'altro qui, ma non abbiamo il tempo di approfondire, diciamo c'è uno dei punti critici che avete dovuto affrontare, perché non è stato facile, se ho capito bene, trovare qualcuno che fosse in grado di trasformare questi oli esausti, chiamiamoli in questo modo, comunque in qualche modo contaminati, in biodiesel che deve rispettare delle norme precise, vero? Diciamo che questi sono, questo è biodiesel di seconda generazione, quindi la produzione industriale si è tarata sulla produzione di biodiesel da oli vergini di origine agricola, e quindi quando abbiamo voluto avviare questo progetto abbiamo dovuto fare qualche tentativo per trovare gli operatori giusti che avessero voglia e esperienza per dedicarsi a questo settore. A che punto siete del vostro programma e a quale obiettivo puntate, se pensate di riuscire a fare meglio di quello che avete fatto finora? Allora, in questo momento noi abbiamo superato un chilo ad abitante anno, che è un ottimo risultato, anche se da letteratura sappiamo che il consumo di ogni cittadino e quindi la produzione potenziale di olio è molto maggiore. Noi speriamo di crescere, però il nostro primo obiettivo era raggiungere questo numero, un chilo abitante, perché questo ci dava la possibilità di contare su biodiesel sufficiente per la nostra autonomia dei nostri mezzi. Quindi era un obiettivo, diciamo, tutto interno, che rendeva significativo il progetto, avere del biodiesel sufficiente per le nostre esigenze. E qui veniamo forse al pezzo forte di tutto questo esperimento, che è il bilancio economico. Diciamo che non potevamo godere di finanziamenti e non avevamo certo l'intenzione di chiedere ai cittadini della città un incremento delle bollette per fare un progetto sia pur molto interessante. Quindi l'obiettivo era fare tutto senza spendere e quindi autofinanziare questo progetto con i risparmi che produceva. Ci siamo sempre riusciti e abbiamo l'orgoglio di poter dire che questi risultati ambientali sono stati tutti con una estrema compatibilità economica. Grazie Romanello. Buona serata, arrivederci, grazie. Bene, noi ci fermiamo qui, appuntamento a domani, alla solita ora qui su Radio 24. Buona serata.